andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto, allora ciao. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Arrivano i cinesi, arrivano nuotando, dice Ruggero Orlando che domani sono qui. Arrivano i cinesi, arrivano a milioni, più gialli dei limoni che metti dentro il tè. Perché? Perché? Perché lo chiedo a te. Arrivano i cinesi. Va bene. Sono dei delinquenti e non ne posso più, abbiamo già abbastanza problemi. Basta esportare quella merda, che se la tengo nel loro paese. L'analisi, okay? L'analisi che tu fai, ti sento molto accalorato. Non ci vogliono stare, poi vengono da noi e pretendono di imporre a noi. È ora del riscatto. Il signor Forchielli, imprenditore, eccetera, eccetera, questa mattina da Milano esordisce così sulla Cina. Analisi cari attaccata. Ascoltatori, analisi azzeccatissima, bisogna usare il pugno duro. Basta illegalità, abbiamo permesso troppo. Ipocriti tutti quelli che partecipano ai funerali, le istituzioni, eccetera, eccetera. Tutti una massa di ipocriti. Insegnano il saluto con l'alfabeto muto, così non parli più. Perché? Perché? Perché? Gli imprenditori cinesi sono dei criminali. Hanno una forma mentis da criminale. Piccoli o grandi che siano, pubblici o privati, crescono in un mondo senza regole, crescono in un mondo senza etica, crescono in un mondo estremamente corrotto e quando vanno fuori si comportano allo stesso modo. Perché? Perché? Perché? Perché? Ma stavo dicendo, infatti. Gli impiegati dell'ambasciata, ci prospera l'ambasciatore, ci prosperano tutti su questa merda. L'hai capito o non l'hai capito? Arrivano a milioni, più gialli dei limoni. Signor Forchielli, che anche presiede l'istituto non so che cosa dell'osservatorio Italia-Cina. La Zanzara 800240024, mi piacciono le parole chiare sulla questione cinese, su quello che è successo a Prato. Ma sentiamo il nostro amico Buonanno. Ah, altro moderato sicuro. Com'è che si chiama, scusa, com'è che lo chiami tu? Good Health All. Beh, ancora una volta si dimostra l'Italia ipocrita, c'è una regione, la Toscana, che è governata da sempre dalla sinistra, oggi in Parlamento ci sono quelli di Sinistra, Ecologia e Libertà con il fiore che rappresenta il lutto cinese, però sono quelli che hanno governato quella regione da sempre e non sapevano che i cinesi a Prato vivessero in quelle condizioni. Sindacato parassita. Quanti centinaia, quante migliaia di persone vivono in quelle condizioni? Che cosa ha fatto il sindacato? Il sindacato italiano, oggi come oggi, non serve a niente, è un parassita. Arrivano i cinesi, arrivano nuotando. Oh, intanto una buona notizia, la polizia userà uno spray piano al peperoncino. Con la polizia, piano, perché tu ogni volta pesti certe. Ma io non pesto nulla, io dico certe... quello che penso, non pesto nulla. Camminando non è che per strada, ma devi guardare dove cammini. Ma io non sennò... sto lì a fare tic e toc. Io dico quello che penso. Spray al peperoncino a polizia e carabinieri. Benissimo, testa Roma, Milano e Napoli. Sperimentazione da gennaio, subito. Subito. Orlando, che domani sono qui. Arrivano i cinesi, arrivano a milioni. Oh, Formigoni dice di aver detto delle cose terribili alla Santanchè, cioè dire la pitonessa, i vermi. Striscia, striscia, diceva. alla Zanzara. Sentite, le quaglie e le pernici che avevi preso tu. Ha detto delle cose terrificanti contro i suoi ex amici. Io resto sempre trasecolato. Alla Zanzara, la Zanzara, che è una trasmissione, come lei sa. Ho capito, sì, però poi le frasi. Quando due, io lo dico sempre, due coniugi che sono stati insieme fino a pochi giorni fa. No, io solo preso quando vi dite le cose che vi state dicendo, non fate una bella figura. Vede, direttore, il problema è che bisogna anche imparare a dire la verità, soprattutto a chi ci ascolta, agli elettori, anche se gli elettori sono molto intelligenti. No, ma io ce l'avevo per la verità con le dichiarazioni di Formigoni, in questo caso. Un libro speciale, un libretto rosso. Cose terribili alla Zanzara, ma non è che uno viene da noi e dice delle cose terribili, se poi sono delle cose terribili, poi bisogna vedere. Poi ma non ha detto che non le pensa. Sì, ma perché l'ha detta da noi? Vabbè, ma che c'entra? Sempre parole sono, cioè restano sempre scolpite nella pietra, no? Per esempio, cara Danielina, Silvio è stato condannato, io no. Io mi sono limitato a dire, cara Danielina, perché cerco di essere cortese, tu dici, anche con ragione, che Berlusconi è oggetto di un accanimento giudiziario, che i PM contro di lui sollevano le massime accuse. Va bene, allora non credi ai PM che attaccano Berlusconi, dai totalmente credito ai PM che attaccano Formigoni. Ti rendo noto, cara Danielina, che io non ho mai subito una condanna, mentre il povero Silvio ne ha subite. Arrivano nuotando, dice Ruggero Orlando, che domani sono qui. Arrivano i cinesi, arrivano a milioni, più gialli dei limoni che metti dentro il tè. Perché l'altra cosa assurda è Dario Fo, il quale spinge il povero Guido Barilla, che ha già i suoi guai, come sapete, a fare delle pubblicità. Anche lui lo spinge a fare delle pubblicità che coinvolgano le famiglie omosessuali. Basta con questa storia di ipocrisia. Signor Barilla ha detto le cose che pensava. Beh, poi ha chiesto scusa subito, però. Questo l'ha dovuto fare. L'ha dovuto fare, ha dovuto subire le pressioni della sua azienda, ci sono dei problemi, eccetera, eccetera. Però basta con questi inviti a far rifare la pubblicità con i gay. Non lo fa nessuno tra le aziende che fanno la pasta. Nonostante quello che hanno detto dopo, non lo ha fatto nessuno. E risentiamo Barilla, vai. Perché non fate un bello spot con una famiglia gay? Bellissimo. Diciamo che noi abbiamo una cultura vagamente differente. Per noi, in che senso, scusi? Il concetto di famiglia sacrale rimane uno dei valori fondamentali dell'azienda. La salute, la famiglia, il concetto di famiglia. Cioè, non fareste mai uno spot? Il concetto, no, non lo faremo, perché la nostra è una famiglia tradizionale. Dice Ruggero Orlando che domani sono lì, arrivano i cinesi, ti fanno un 48, si piazzano in salotto e non se ne vanno più. Altro che salotto, 800240024, siamo qui con un personaggio, caro Parenzo, che per anni è stato in Senato, tu lo conosci molto bene, un ex senatore che però attualmente è consigliere regionale pure comunale. Per l'esattezza. Tanti anni in Alleanza Nazionale, poi PDL. No, prima nel MIS. Sì, prima MIS. Missino. Poi AN. Uomo dalle mani pulite, che voleva addirittura linciare quei ladri della Prima Repubblica. Questo va ricordato perché era spietato e durissimo contro la corruzione del 92. Vabbè, è quello. Possiamo dire adesso un po' chi se ne frega. No, perché ha pubblicato sul suo sito anche la fedina penale pulita. Vabbè, Riccardo Decorato, buonasera. Buonasera. Oggi buonasera a voi, buonasera. Come stai, Riccardo, caro? Ciao. Ciao, caro. Oggi Fratelli d'Italia. Buonasera anche a Cruciani. Sì, ovviamente. Ciao. Accompagno Cruciani. No, perché compagno? Compagno sarai tu. Vabbè, insomma, anche se compagno, io ho avuto meno problemi con i compagni. Che con chi, scusi? Che con i miei, diciamo. In che senso, scusa? Di coalizione, ma così, nel senso che dopo 15 anni... meglio i comunisti di chi? Più leali. No, questo no, non arriviamo a troppo. Non arriviamo a troppo, per carità. Adesso per non carità. Ci allarghiamo. No, per carità. Ma per te i comunisti cosa sono? Cioè, degli esseri subumani? No, assolutamente. No. Io ci ho avuto a che fare per tanti anni. Sì. Erano persone più serie di quelli del PD di oggi, tanto per capire. Ah, ho capito, meglio il PC di quelli del PD di oggi. Beh, erano più serie. Più serie, non c'è dubbio. Scusa un attimo, Riccardo, ma caro Decorato, la cosa più incredibile è che adesso anche tu, che sei stato tra quelli che hanno votato la legge Carfagna, quella sulla punizione dei clienti, vuoi la legalizzazione della prostituzione. Per carità, l'hai detto sempre, non è la prima volta. Ma c'è però un nesso, poi lo spiego. No, ma il nesso tra la punizione dei clienti, la punizione, cioè togliere... E la legalizzazione. C'è la riapertura delle case chiuse, diciamo che non c'è, diciamolo tutto. Adesso lo spiego. Oh, vabbè, comunque, dimmi un attimo, che cosa... Allora, perché dici che ci sono troppi perizoma? L'obiettivo è quello di togliere queste donne dalle strade. Sì, ma non punendo i clienti però. E tutte le strade sono utili per togliere questa situazione che sì. Basta vederla, io non uso aggettivi perché ormai... Che situazione è, scusami? Beh, è sotto gli occhi di tutti, finestre, i portoni del centro di Milano. Se del vai, centro? Se va in Loreto... È pieno di che? Ma la sera dopo le 22 si faccia una passeggiata. No, ma io la faccio la passeggiata. Ne fa tante di passeggiate. No, io le faccio, ma non è che vada a mignotte. No, perché no, appunto, no, ma passeggiate, ho detto passare, e che succede? Guardare, che succede? Spettacolo c'è. E poi... Che ci sono, mutande, perizoma? No, che mutande, ci sono queste... Perizoma? Purtroppo, purtroppo molte di queste, per non dire che la stragrande maggioranza, sono straniere. Perché dietro la prostituzione c'è... traffico di esseri umani. Non c'è umani. Dubbio, però scusa, hai detto nei giorni scorsi, ieri, che ci sono tanti perizoma in giro, Di tutti i tipi, certo. Ma io non li vedo tutti questi perizoma in giro, non è che Milano è invasa dai perizoma. Beh, guarda, noi avevamo, perché io non sono più assessore né vice sindaco dal 2011, avevamo la mappa del rischio nella Polizia Municipale di Milano. Sì. Posso assicurarti che le vie, vie molto... Via 20 Settembre che... Cioè Milano in base, lascia perdere le vie, adesso parliamo a tutta Italia. C'è una presenza che è ossessiva. Ossessiva. Nel centro di Milano, nel medio centro, nel centro di Milano, ma anche nelle periferie. Di prostitute. Di una quota rilevante di prostitute straniere, soprattutto nigeriane. Nigeriane, sì. Dell'est e peruviane. Però scusami un attimo, Riccardo, scusami questa cosa qua. Tu sei mai andato a un bordello? A me hai frequentato? Non c'è niente di male. Tanti anni fa sì. Ah, sei andato, Da ragazzo sarà andato. Da ragazzo oppure sei andato in Svizzera, nella vicina Svizzera? No, ero ancora in Puglia, guarda. Quindi... Eri in Puglia, cioè hai frequentato gli ultimi bordelli si aperti? Si usava, in una volta si usava molto. Tanti anni fa. Cioè, tu dimmi la verità. Io sono da 40 anni a Milano. La prima volta che l'hai fatto in un bordello? Non me lo ricordo più, ma so che erano tanti anni fa. No, però la prima volta che hai fatto l'amore è stato in un bordello? No. Però si usava molto all'epoca, c'era cioè un modo per un'iniziazione alla sessualità. Si usa anche adesso, Si usa anche adesso cosa? Certo. Perché... Visto l'alta presenza che c'è nelle strade italiane, non solo di Milano, ma sono i milanesi che ci vanno lì. Milanesi che ci vanno con questi. Ma scusa, in qualsiasi città italiana, dovunque va. Però scusami Decorato, ma oggi anche molti centri massaggio cinesi sono praticamente dei bordelli, si può dire? Sì, si può dire. Sì, possiamo dire con dati di fatto. Noi abbiamo diciamola questa cosa qua. Avevamo fatto le famose ordinanze coprifuoco che prevedevano la chiusura in alcune vie come via Padova, via Imbonati, la chiusura alle 20:30. Perché? Coprifuoco perché questi centri massaggi erano aperti alle 5 fino alle 4. Diciamo la verità, sono dei veri e propri bordelli. Esatto, sono luoghi di prostituzione. Ottimo, cinesi, no? Stupendo. Molte volte cinese, diciamo. Ma sono... dice sono fuori dalle regole, però. Vanno chiusi, secondo te? Vanno regolarizzati, insomma, vanno chiusi. No, basta chiudere quando chiudono le altre attività commerciali. Poi io... Vabbè, ma non si può chiudere, ma bisogna... C'è un problema... Si immagini se uno va a farsi i massaggi alle 4 di mattina. Ottimo, stupendo, meraviglioso. Che ci sia qualcuno che alle 4 o 5 di mattina si alza a posto per farsi un massaggio. Ma che massaggio? Lì massaggio, non c'è massaggio. Non è che fa massaggio. Non era un massaggio e questo è il motivo. Quindi... Va bene, un attimo solo che c'è il traffico. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Fa male solo a chi non sa ridere. E la zanzara mi ha beccato, mi ha beccato bottiglione. Eccoci qui, 800 24 00 24, con Riccardo Decorato, consigliere regionale in Lombardia di Fratelli d'Italia. Vuole abolire adesso la legge Merlin, cioè riaprire i bordelli. Noi siamo molto felici di questa cosa, non perché vogliamo andare per forza nei bordelli, ma perché pensiamo che la legalizzazione della prostituzione, libertà sia uguale responsabilità. Chi è questo pannello? Sia alle droghe, sia alle puttane, sia il diritto a vivere nei bordelli, fuori, perché di fronte a un parlamento di prostitute meglio andare con le prostitute, quelle vere. Vabbè, grazie Pannella. Allora, Decorato, però tu sai che Decorato, perché nel c'è suo... una presenza ossessiva dei gay in città? Ma scusi, dove? A Milano. No, non so se sì, ho detto che c'è una presenza anche di viados, come no, di gay, lei ha detto, di omosessuali, lei no, ha detto. No, io... No, l'abbiamo l'audio. Presenza... Sì, io mi riferivo ai viados. Le omosessuali sinonimo di viados. No, insomma, di Viados, io parlavo di Viados, poi mi sono espresso forse sì, anche male. Ma scusi, perché per lei è uguale omosessuale Viados? No, sono due cose diverse. Però scusi un attimo, ma che importanza ha che siano Viados o prostitute? Cioè, qual è la differenza secondo lei? No, il problema è che possono ognuno fare quello che vuole in casa, io non ho nessun problema. No, d'accordo, ma lei ha detto c'è una presenza ossessiva di Viados omosessuali, e lei si è confuso, vabbè, d'accordo. Ma perché, no, ossessiva nel senso che è nelle strade. Ma che differenza c'è tra una prostituta normale, ma la presenza... Lo fa in casa, non è ossessivo, nel senso che fa ognuno in casa fa quello che vuole. Ma tra la differenza tra una prostituta e un viado, una moglie, qual è? Nessuna? Quando no, nessuna, non c'è nessuna differenza. Ah, e che ne problema, so, il problema è uguale, non cambia niente. No, lei ha detto presenza ossessiva dei gay. Il allora... problema è la presenza per strada di viado. Sì, però lei si deve mettere d'accordo anche con se stesso, perché quando lei propone la punizione dei clienti, mi deve dire che differenza c'è. Uno non può essere d'accordo con le case chiuse e poi dire voglio punire il cliente. I clienti... Se le prostitute, noi abbiamo usato tutto quello che era nelle disponibilità, questa è un'ordinanza del... No, mondo. Ma lasci perdere l'ordinanza, non ci interessa, qui è lei, usato tutti i mezzi possibili che avevamo nelle disponibilità dei sindaci, che erano le ordinanze, che non ho fatto solo io, perché quell'ordinanza fu fatta... No, ma lasci perdere l'ordinanza, la questione è l'aver approvato una legge come quella Carfagna che punisce in teoria, poi non viene fatto, clienti delle prostitute. Esatto, ma l'obiettivo è sempre quello di togliere dalle strade le prostitute, questo è l'obiettivo. E quindi punisci i clienti per strada. Pur di togliere dalle strade le prostitute. Ma non si può, ma non succede nulla, poi lei sa benissimo che non succede nulla punendo i clienti. Non è vero. Questo non è vero, perché quando noi abbiamo attuato quell'ordinanza, che poi tra parentesi adesso è quella che Hollande sta facendo in Francia. Purtroppo. Infatti si stanno ribellando un sacco di persone. Quindi, come vede, non c'entra la destra e la sinistra. Questa è una questione abbastanza... Cioè, secondo lei il cliente va punito? Se per togliere le prostitute dalle strade io uso anche quel mezzo lì, utilizziamo per anche gli spray, che ne so, utilizziamo gli spray. No, gli spray no, io usavo un metodo che era allora era legale, se tutti fermi entravi sulla strada c'è la multa, tutto lì. Ah, cioè, se tutti fermi davanti a un transo, davanti a una prostituta c'è la multa, c'è un intralcio al traffico quindi c'è conseguentemente una multa, quindi l'obiettivo mio è quello di togliere dalle strade le prostitute. Scusi. Poi in casa, ognuno sotto forma di cooperative, sotto il controllo delle questure, delle ASL, tutto possono fare quello che vogliono, viados, prostitute. Pagano le tasse. Pagano le tasse, certo, perché cooperative... Senta, lei è d'accordo con Putin quando dice che non bisogna adottare bambini russi a famiglie gay? No, non credo. Il problema in Italia è un altro tipo, in Russia secondo magari lei c'è questo problema. Io un bambino a una coppia gay non sarei molto favorevole. Ma perché cresce male? Non lo so, non mi convince. Magari cresce anche bene, però non mi convince questa. Sì. Vabbè. Questa è una questione mia personale, però per carità, certo che è personale. Ma vabbè, magari. Tu hai visto che nel sito di Decorato lui ha pubblicato la sua... Però c'è il giornale radio. Sì. Se vi ho disturbati. Beh, non è che hai disturbato, perché a un certo punto hai sfasciato lo studio, caro Marco, per cui noi ti vogliamo anche bene. Ma non lo chiamiamo più il povero Pannella. No. Che fine ha fatto? Ma che motivo c'è, dai? Deve passare del tempo, bisogna riconciliarsi. A proposito, risentiamo lo spettacolare intervento del sindaco di Salerno, nonché vice ministro per finta alle infrastrutture, perché non ha nessun potere, Vincenzo De Luca, Partito Democratico. Che è veramente poco riconciliato col PD, quello lì. Sì, vabbè, sì. Molto poco. Sì. Partiamo dal doppio incarico che non esiste. Il doppio incarico non esiste, l'ho ripetuto 300 volte, perché c'è un incarico solo, quello di sindaco. L'altro incarico è virtuale finché non si definiscono le responsabilità. Quindi in tutta questa faccenda, chi ha rispettato la legge attivando la procedura di decadenza presso il Consiglio? Sono io. Gli altri hanno violato la legge. Il doppio incarico non esiste, non c'è, è una palla. Ma è molto chiaro. Lupi, un cristiano di sacrestia. Ma figurati se io mi faccio ricattare da uno come te. Ma per cortesia. Direbbe Papa Bergoglio, un cristiano di sacrestia, via. uno di quelli che sono molto compiti, e cioè, ma che so, pensano di fare i fatti propri e di prendere per i fondelli gli altri. Io sono per parlare chiaro. Gruppo dirigente del Partito Democratico dei Miserabili. E sono indignato con un Partito Democratico che ha un gruppo dirigente miserabile che da 5 mesi non dice una parola. Vorrei domandare ad Epifani, ai dirigenti di questo partito, dove avete deciso di mettere nelle mani di una sola persona quel popò di responsabilità relative a un ministero che accorpa 3 ministeri? Chi lo ha deciso? Contro Travaglio. Chi è questo pinguino a cui si riferisce? Chi è? Guardi, Travaglio è un mio benefattore, perché deve sapere che ogni volta che apre bocca Travaglio io guadagno 10.000 voti. Quindi se non esistesse dovremmo inventarlo. Ovviamente non vale la pena neanche di rispondere a alcuno di imbecillità che ha detto questo signore, che fa parte di quei moralisti da salotto, ben pagati, che immaginano che la morale si difenda con le parole. Titoli del TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Napolitano su crescita e occupazione, necessario un cambio di rotta dell'Europa. Italia orgogliosa per lo sforzo di risanamento della finanza pubblica. Letta al commissario Reni, i conti dell'Italia sono in ordine, appello a Forza Italia, senza riforme affondiamo tutti, col futuro segretario PD lavoreremo bene insieme. Grasso senza una nuova legge elettorale, rabbia antipartiti, se lo stallo continua sosterrò il trasferimento alla Camera, tempi lunghi per la consulta. Arriva il nuovo ISEE, l'indicatore per misurare il reale reddito delle famiglie, Letta così stop ai finti poveri che vanno all'università in Ferrari. Bruciare rifiuti è diventato reato, lo prevede il decreto della Terra dei Fuochi, approvato oggi, entro 5 mesi i controlli sui terreni agricoli a rischio. Indagati i gestori della ditta cinese distrutta dall'incendio che ha ucciso 7 operai, domani lutto cittadino e lavoratori fermi contro gli schiavitù. Gli studenti italiani migliorano in matematica e scienze, ma sono ancora al di sotto della media europea, il rapporto dell'OCSE sulla nostra scuola. Lo vogliamo dire che queste associazioni di disoccupati napoletani che spesso che oggi hanno occupato una sede del Partito Democratico, alcuni sono arrampicati addirittura sulla Fontana di Trevi, sono una vergogna, perché spesso sono delle associazioni di veri e propri criminali, cioè non sono disoccupati, sono alcuni dei criminali. Non tutti, c'è un'associazione serissima che sfruttano la parola disoccupato, che è una parola importante, una parola seria, per fare gli affari loro. In alcuni casi le associazioni sono legate pure alla camorra. Invadono le sedi del Partito Democratico, dei partiti, si arrampicano sulla statua di Trevi. Bisogna arrestarli. Chi si arrampica sulla statua di, sulla Fontana di Trevi, bisogna arrestarlo. Beh no, quello ha anche arrestarli. Un tocco marinetti futurista. Ma quale no? Futurista? Quello anche a me piace molto. L'occupazione dei monumenti piace molto perché è innocua, se non danneggiano. Ma quale innocua? Sì, no, innocua. No, bisogna dire questo. Questi non mi piacciono. Dai, per nulla. Su. Questi hanno delle brutte facce, non mi piacciono e sono convinto anch'io che non siano veri. Ma che c'è? Non è questione di facce. Non ti puoi arrampicare sulla Fontana di Trevi. Però dai, gli studenti che occuparono i monumenti italiani, ma per carità, e per sensibilizzare, quello mi piace moltissimo, perché se non rovinano ovviamente l'archeologia, quello è molto bello. Ma che non rovinano l'archeologia? Ma che vuol dire? Ma quale futurista? Perché non rompe le scatole a chi deve tornare a casa. Non ci si può arrampicare sui monumenti, basta. Traffico, non ci si può arrampicare. Occupa, se non li rovini ovviamente, se non li rovini può essere anche un modo, vabbè, per rivalorizzarli, perché non sappiamo neanche l'esistenza di questi monumenti allora. Quindi bellissima. Così temente. Ecco, bravo. No, questo è quello che bravo, dice Luca. Bravo, no, ha ragione. La Littizzetto domenica scorsa, se non sbaglio, sulla vicenda di Cota. Sentiamo. Guarda, Cota Azzurra, c'ho qua 5 euro per la ricarica del telefono. Mi metto qua, ecco. Se vuoi, passa, quando hai tempo, io li lascio qua. Però no, abbi pazienza, cara Littizzetto. Anche quelli dell'Emilia Romagna. Cara Littizzetto, ci sono gente dell'Emilia Romagna, del Partito Democratico. Sardegna, di tutti i partiti, e tu te la prendi solamente con Cota? Cioè tu sventoli 5 forse euro per Cota? Perché lei è piemontese. Ma non me ne frega niente. Però, un po' ma puzza. Non puoi. Dai, su. Ci sono fior di dirigenti del Partito Democratico in tutta Italia coinvolti nella vicenda dei rimborsi, vero? Vergogna, e se la piglia solo con Cota. E dai, su. Questa non è satira. A parte il fatto che deve essere provato tutto, ma va benissimo, anche noi attacchiamo chi si è fatto rimborsare gli scontrini. Però la battuta deve farla anche su quelli la del PD, pure sul che PD. In Emilia-Romagna si sono fatti rimborsare il viaggetto con l'autista di 900 euro. Buonanno incazzatissimo. No, ancora Buonanno. Sì, in permanenza. Ma vada a Radio Padania, Buonanno. Ricordare a questa signora, visto che ha fatto anche sventolare 5 euro ricordando al governatore che è stato votato dai piemontesi che gli compra lei la tessera telefonica, che io gliene sventolo anche 10 e che si deve comprare il Tantum Verde, si sciacqua la bocca che a forza di fare il lacchè della sinistra ha perso ogni sua componente satirica. Ma chi è adesso Buonanno? Ancora Buonanno. È una cosa normale secondo lei, signor Presidente, che questa persona che prende i soldi dalle coppe e fa la pubblicità, la coppe siamo noi, però i soldi se li prende lei a fior di centinaia, di migliaia di euro alla volta, questa persona qua è possibile che deve essere pagata con i soldi pubblici? Poi magari va anche al Festival di Sanremo e gli diamo ancora altri soldi pubblici. La signora Littizzetto deve essere sospesa dalla RAI. Ah, che stupidaggine, che stupidaggine. Arriva lui. Allora, se io devo scegliere tra Buonanno e la Littizzetto, ovviamente scelgo Buonanno. Perché tutta hai il gusto dell'orrido? No, perché è meglio questo. Buonanno della Littizzetto. Perché tutta hai il la gusto vita, dell'orrido? Tutta la vita. E del paradosso. Devo dire la verità: che cosa gliene frega alla Camera, al presidente Boldrini, di quello che pensa Buonanno della Littizzetto? Non gliene frega assolutamente nulla, no? Solo perché è pagata dalla RAI. Ma si rivolgesse ai dirigenti della RAI. Però, soprattutto lei fa ascolti e porta soldi alla RAI. Ma che vuol dire? Dai. Cosa porta al paese Buonanno? Se vogliamo proprio metterla lì sul tavolo. Meglio Buonanno della Littizzetto. Alessandro da Pisa, buonasera. Sì, buonasera. Vai. Parlo col piccolo Salazar. Sì, Salazar, io sarei Salazar. Beh, sì, il fatto di l'uso della pulizia, simpaticamente, mi permetto di dire che... Diavolo, siamo in sedicesima. Sì, ma che c'entra? Che cosa c'entra? Io ho detto che la polizia ogni tanto... Ma la polizia approfitta di essere violenta tutte le volte che ha l'occasione. Non che tutti i poliziotti siano dei criminali, ma la polizia di tutto il mondo sì. È selezionata da menti, come dire, già un po' baccate. Non serve incitarli per diventare criminali di Stato. Vabbè, poi? Poi sulle prostitute, voi... Convocate sempre questi personaggi, il sindaco di Conegliano Veneto, decorato. Questi hanno letto solo il decalogo delle Brigate Nere. Leggetevi cosa scriveva Diderot, Denis Diderot, e cosa scriveva Guy de Maupassant sulle prostitute. Cioè? Che vuol dire, Alessandro? Sparito, Giuliano da Perugia. Ha fatto due citazioni, Conte, e sei inabissato. Giuliano da Perugia. Buonasera. Dica. Volevo solamente esprimere il mio pensiero riguardo le adozioni gay. Sì, ma stasera non ci interessa, comunque dica. Non so, io l'ho detto prima. Mi avete vai, vai, vai, vai, vai. Volevo solamente dire che non c'ho nulla in contrario contro gay, anzi abbiamo anche parecchi amici gay e sono anche persone sinceramente con cui si sta molto bene. Ma... Però non sono d'accordo che ai bambini, io sono padre, si possa dare un esempio di diciamo. Vabbè, lei è contro l'adozione gay, per quale motivo? Perché l'esempio che può dare un genitore gay, sì. Secondo me, è un esempio sbagliato. Cioè, un uomo che si comporta da donna non è un esempio per un bambino. Ma che ne sa lei che ruolo c'è tra due gay? Magari uno è uomo-uomo e l'altro è donna-donna, che ne sa lei? Ma sì, vabbè, non è che possiamo fare distinzioni fra adozioni uomo-uomo o uomo-donna. Cioè, no, rispetto... ma che ne sa lei? Cosa ne sa? Come cosa ne so? Cioè, cosa ne sa di come si comporta una coppia gay? Magari nella coppia gay c'è un uomo e una donna, uno che fa il ruolo da uomo e un altro che fa il ruolo da donna. Però vedere un uomo che fa il ruolo da donna sicuramente non è costruttivo per un bambino. Vabbè, questo lo dice lei, ci sono tanti esempi. Ma penso che lo dicano in tanti, ma io penso, lei come la pensa? Ci sono bambini che crescono tranquillamente anche in una coppia gay. Borsa. Senti, ma in questo programma chi vi parla? Sempre di politica. E poi andisce, poi cioè, allora 10 minuti non mi fai sentire la borsa. Ma deve essere una roba proprio veramente. Un programma un po' di merda questo mi deve essere. Pomate, pomadine, cintro nella macolo che niente fare. Va bene. Sono dei delinquenti! E non ne posso più, abbiamo già abbastanza problemi! Basta! Esportare quella merda! Che se la tengo nel loro paese! L'analisi, okay? L'analisi che tu fai, ti sento molto accalorato. Merda, non ci vogliono stare, poi vengono da noi e pretendono di imporre a noi! È ora del riscatto! La miseria. Forchielli. Ma di che parla? Dei cinesi, dei cinesi. Ma no, ho capito. Ma guarda che la colpa è solo nostra, non dei cinesi. I cinesi fanno i cinesi. Siamo noi che dobbiamo far rispettare le regole, scusa. Ma di che parla questo? Letter fa l'amore. Alberto, se noi facciamo un'operazione pesante di polizia, ci arriva addosso il governo cinese e ci dice che siamo degli schiavisti. Basta! È importante. Mandate l'ambasciatore a parlare con me! Ci parlo io con l'ambasciatore cinese! No, l'ambasciatore gli dico, sai Ciccio, tu da avanti sei responsabile! Ma c'ha ragione, dai, su, no, non facciamo niente, non facciamo niente. Ma noi abbiamo paura dei cinesi, dai. Ma su. Non noi abbiamo paura dei cinesi. Sì, il governo, le istituzioni hanno paura dei cinesi, che poi vanno a piangere dall'ambasciatore. Guarda, e poi piange col governo. Questo, dai. Parole definitive, l'ha scritta Edoardo Nesi. Ma chi se ne frega? Fabio da Reggio Emilia, ma non me ne frega gente niente. Dimenticata, non me ne frega dallo niente. Stato. Fabio... Nesi, Edoardo Nesi. Ecco. Ma come David? Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Ecco, bravo. Fabio da Reggio Emilia. Ma che me ne frega a me? Fabio da Reggio Emilia. Cinesi sui cinesi. Pronto? Fabio da Reggio Emilia. Pronto? Sì. Siete due rappresentanti del cialtronismo totale. Può essere, eh? Sì. Allora? Qual è il problema? Siete due perché dite minchiate a palate e non si ride più delle sì. cazzate che dite. Bene, questo, se lei non ride, pazienza, chiuda la radio e non ci rompe i coglioni. No, scusa. Non devi rompere i coglioni a noi italiani, sì. Cittadini che paghiamo le tasse. Io pure le pago, o le tasse. Le tue minchiate. Anch'io pago le tasse. Che vai raccontando. Anch'io pago le tasse. Amico mio, anch'io pago le tasse. Anch'io pago le scatole con le tue panzane. E vai a prendere per il culo il sindaco perché vuole difendersi della sua cittadina. Chi? Ma quale sindaco? Ma quale sindaco? Ha sbagliato trasmissione. Ma hai sbagliato trasmissione. Ma fare le domande. Ma dove voleva chiamare? Scusa. Perché vuol pulire le strade alle prostitute? Ma chi? Ha ragione! Ma chi? Ma perché collusi! Ma non è il sindaco! Con le prostituzioni! Ma questo ci è matto, sono poliziotti, non è il sindaco! E l'ex vice sindaco! Pronto? Ma è ubriaco, lascialo! Pronto? Pronto? Sì, chiama l'ambulanza, Parenzo! No, chiama, sei ubriaco, è diversa no, la cosa! Volevo soltanto ricordarle che quello è l'ex vice sindaco di Milano, ora è un consigliere regionale! Ma lascia perdere! Allora, pronto? Pronto? Fantasia! Parliamo di fatti e non di stupidaggini. Sì, sì, vai. È finita l'ubriacatura? No, non c'è nessuno di ubriacatura. È finito l'effetto. Siamo cittadini che sono siamo stufi. Chi? Di che cosa? Ma siamo uno. Ma siamo chi? Ma siamo chi? Ma siamo chi? Ma poi di che stai parlando, Fabio? Di quale cosa concreta stai parlando? Non ho capito. Sto parlando che tu fai una trasmissione che prende per il culo sistematicamente tutti gli interlocutori. E vabbè, può darsi, allora. Non lasci nemmeno parlare. Ma ti sto facendo parlare. Ma ti sto facendo parlare, tu che sei. Ma tu che sei un mezzo ubriaco, ti sto lasciando parlare. Tu sei mezzo ubriaco, insulti. Sei mezzo ubriaco, insulti. Stai dicendo le peggio cose e ti sto lasciando parlare. Che vuoi di più? Faccio esattamente quello che fai tu. Può darsi, può darsi. Ma. Perciò non ti preoccupare di questo. Tanto fai, tanto ricevi. Va bene, allora. Vai avanti, dunque? Ma infatti non mi sto spaventando, ti lascio parlare, cioè il delirio va fatto sfogare. Fabio? Fabio è morto, vabbè. No, no, c'era il tuo... Ha bevuto troppo. No, no, no, Fabio? Ha lasciato il cellulare... No, no, adesso, ha lasciato Renato sì, da Udine. Ha lasciato il cellulare acceso. Ma che ne so, Renato da Udine, lo richiamiamo sto matto. Renato da Udine. Sì. Vai. Sì, sì. Eh sì, un cavolo, sì, prova, sì, prova, No, volevo solo dirti che essendo noi sul confine austriaco sì. E di là ci sono un mare di chiamiamoli bordelli, come dici te, sulle strade non ce n'è di prostitute, pertanto è una cosa positiva poter riprendere ed aprire queste benedette case chiuse per tutti. Dunque, non ho capito. Che in Austria, ad esempio, non ci certo, sono ci sono case le case chiuse, chiuse, ottimo, certo. Come in tutta Europa, pertanto non è una novità, non sarebbe niente di male, no? Noi che viviamo anche sul confine, vediamo che c'è una marea di gente italiana da tutta Italia che viene in questi locali. Sì, beh, chiaro, non è mica una novità, cioè ci sta raccontando che c'è un sacco di gente che dall'Italia va all'Austria perché ci sono i bordelli. Ma insomma, a manetta proprio. Ma mi sembra una cosa, come dire, talmente chiara, talmente lampante, talmente conosciuta che non è il caso di ripeterla, caro Renato. Comunque lei ci va? Allora. Lei ci va? Passato, sono passato. È passato. È passato così per cioè, caso. È passato per caso. No, no, apposta c'è. No, lei... per caso no, ma è passato. Ma lei lo deve dire esplicitamente, sono andato a puttana in Austria. Cioè, come si dice, esatto. Come lei come direbbe ai suoi amici, sono andato a Troia in Austria o no? Più o meno sì, esatto. Ma è così, dai. Livio dalla provincia di Firenze. Livio. volevo segnalarvi questa cosa che del giovane, non più giovane, Ceausescu. Sì. Salernitano. Sì. Ah, De Luca, lei lo chiama Ceausescu. Per me è il numero uno, De Luca. Piccolo Ceausescu napoletano, non so, ma che per lei è il numero uno. Ma il numero uno assoluto, uno che decide, non si fa impaurire. Però, sì, ecco, appunto, siccome è di decisionisti, mi sembra che... Decisionisti, certo, beh, quello ci vuole in Italia. Assume cioè, le responsabilità, fa delle robe. Decisionisti, ho finito, decisionisti, ce ne sono a bizzeffe. Sì, però mi pare uno vero. Mi pare uno vero il signor De Luca. Per quanto si possa decidere in Italia, dove non si può decidere mai nulla. Quello non si... vero che dice che lui è decisionista e fa le cose e si lamenta del figlio che viene trattato male. Vabbè, ma quello infatti l'abbiamo contestato su quello. Dai del PD, i quali lo hanno fatto diventare sindaco due volte, una volta deputato, anzi più volte deputato, perché dal 2001 al 2008. Vabbè, allora... Non ho capito, qual è il punto? Non è che l'hanno fatto diventare, cioè è stato eletto a Salerno De Luca, non è che è arrivata la benedizione dall'alto. Le segnalo che c'è il porcellum. No, per il sindaco non c'è il porcellum. No, per il deputato sì, però. De Luca i voti li piglierebbe col porcellum, con le preferenze, certo, con il collegio. Ma che pacchetti? Forse delle anche tessere. Perché magari per i suoi cittadini ha governato dai, bene. Dai, su, forse. Non diciamo stupidaggini, dai, certo. Sui pacchetti delle tessere, non è che si fa il sindaco solo con i pacchetti delle tessere, dai. Siccome io sono un elettore del PD. Non si fa il sindaco solo con i pacchetti delle tessere, dai. Si fa il sindaco con i pacchetti delle tessere, ma comunque io siccome sono elettore del PD. Sì. Volevo, siccome a lei non piace De Luca, non piace De Luca. No, io sono anche un ascoltatore della prima ora della Zanzara. Ma che c'entra adesso la Zanzara con De Luca? No, le volevo chiedere gentilmente, siccome quell'uomo tutte le volte che lo ascoltiamo, il linguaggio De Luca, Ceausescu, insomma, a quelli come noi inquieta un po', no? Cioè, ma se a lei inquieta la voglia di andare a votare addirittura così, guarda, addirittura vabbè, ma lei per carità c'è una piccola comunità di persone che sono stati in politica così come militanti per un po' e dicono certo, però insomma se c'è questo e quest'altro e poi ci sono i 101 Vabbè. Votare, ma chi se ne frega dei 101? Chi se ne frega dei 101? Io poi questa criminalizzazione dei 101 non la capisco, questi qua che non hanno votato Prodi quando ci fu l'elezione del Presidente della Repubblica. Uno in coscienza ha diritto di votare chi vuole. Ma se uno vuole Lei lo vuole, ho capito, ma altrimenti uno fa l'elezione a scrutinio non segreto, quando hanno proposto. Sì, ma non c'erano tutti là, non c'erano tutti in quella sala famosa. No. Va bene, grazie. Gino da Prato. Sì, buonasera. Andiamo. Buonasera, mi sentite? Sì, dica. Prima stavo ascoltando i fatti delle sale massaggio, dove si dicevate che sono tutti dei bordelli. No, a Milano molti fanno anche altri servizi, ma mi pare una cosa scontata questa qua. No, non è scontata. Ma è scontata, le assicuro. Infatti ogni tanto qualcuno lo chiudono. Vabbè, qualcuno magari ci sarà, ma però diciamo, non come stavo detto che tutti diciamo sono dei bordelli. Io ne gestisco due qui a Prato, una per una Pistoia. E tutto questo non esiste. Ma infatti le sue sale massaggio che lei gestisce, a parte che lei non con è cinese. No, ma lui forse dice perché io ho dipendenti cinesi e ho sale massaggio. Gestisce delle sale massaggio dei cinesi, giusto Gino? Sì, esatto, sì. Da italiano, vabbè, comunque può succedere anche questo. Con italiano diciamo ho due sale massaggi. Due sale massaggi dove non fanno altri servizi oltre ai massaggi. Oltre ai massaggi. Lei è sicuro che dopo non c'è il post? Hai 1000 per 1000. Non c'è il dopo, non c'è il servizietto successivo? No, ascolti. Attenzione, allora, Gino. I clienti, dei clienti diciamo che vengono per fare delle cose diverse, entrano ed escono. Poi io magari quando sono anch'io e ci parlo, gli dico guardate, se volete andare diciamo a fare altre cose, basta andare sulle strade e le fate, perché io non è che posso aprire una sala massaggi. Voi vi divertite, io vado in galera, perché si va in galera. Ma quale galera? Io ho investito dei soldi. Comunque, giustamente ha fatto un investimento e vuole che non si facciano altre cose oltre ai massaggi, però l'avverto che in molti a Milano, in diversi, centri massaggio cinesi, succede quello che succede. Saputo, Se vuole qualche dettaglio poi lo spiego. Anche Alfano. Grazie Gino, grazie. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, è la zanzara dispettosa, fa zazza. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa. Oh, grande ritorno alla zanzara! Mario Borghezio, buonasera! Buonasera e buona Padania! Ridaglie con la buona Padania! Ma dov'è? A Bruxelles, Strasburgo, Torino, a Napoli? Bruxelles. a Bruxelles. E che fa a Bruxelles ancora? Lavoriamo. Abbiamo mandato una bella lettera anche al presidente del Parlamento in giornata. Ci teniamo in attività perché qui bisogna sempre vigilare contro, certo, Bruxelles ladrona. Pure Bruxelles ladrona adesso. È chiaro. Scusi Borghezio, ma mai più ladrona di Roma. Ha visto però che cosa succede con i cinesi? Ma che bisognerebbe fare con i cinesi secondo lei? Beh, premesso che naturalmente, sì, detto con tutto il rispetto, delle vittime, eccetera, direi che ha maggior ragione con le, assolutamente, con i corpi ancora caldi delle vittime, è il caso di sottolineare le gravissime responsabilità di chi? Di quegli italiani, autorità in primo luogo, sì, e politici che hanno, sì, negato l'evidenza, cioè di una realtà di sfruttamento, questa mancanza totale di controlli. E chi sono lo Stato italiano? Cioè, ma chi tutte sono le autorità, tutte le preposte autorità, sì, e solo la Lega ha sempre avuto il merito, solo la Lega adesso, specialmente a Prato, di denunciare queste cose. Ma la colpa principale di chi è? Possiamo fare nomi e cognomi? Magari, appena si parla di Rom o di cinesi o di sfruttamento, già salta subito l'accusa di razzismo. Ma voglio dire, è razzismo dire che queste persone svolgono, non per colpa loro, sì, perché sfruttate, una concorrenza sleale e quindi dannosa per la nostra economia? Ma lei che cosa farebbe? Bloccherebbe l'arrivo dei cinesi in Italia? Scusi, non lei bloccherebbe l'arrivo dei cinesi in Italia? Ma io dico che bisogna intanto ricondurre le autorità cinesi a fare il loro dovere, non a coprire queste attività, perché l'ambasciata cinese mi risulta che abbia bloccato addirittura le iniziative della Guardia di Finanza. Ma qui siamo matti, comandano a casa nostra. Che vuol dire che questo è lo stato di Pulcinella? Ci facciamo mettere i piedi sul collo persino, andiamo a vedere in Germania e in Svizzera se si fanno mettere i piedi sul collo così dai cinesi, dello Stato che voglio dire, in Padania tutto questo non accadrebbe. Come? Dice lei, certo, cioè, con lavoratori clandestini ci sono anche qui, perché in Padania il capo della polizia sarebbe Borghezio, e quindi nella Padania, e cosa farebbe il capo della polizia Borghezio se fosse capo della polizia a Prato, ad esempio, o prefetto di Prato, il signor Borghezio? A parte che noi i prefetti li aboliamo, però capo della polizia Borghezio, come interverrebbe? Il capo della polizia del nord, il capo della polizia del nord, prima di tutto non li avrebbe fatti entrare, col binocolo. In secondo luogo, ove ci fossero situazioni di questo genere, le pulisce drasticamente. Cosa vuol dire pulisce? Io sono pulisce drasticamente. Certo. Ma naturalmente, democraticamente, ma molto fermamente. E cosa vuol dire? Molto fermamente vuol dire fare pulizia generale. Orrore, però. No, perché orrore? Fa orrore quando lei dice pulizia generale. Io sono di Torino. Quando ci sono state le Olimpiadi invernali, improvvisamente Torino, che l'immigrazione, eccetera, l'invasione varia ha fatto diventare un cesso, era diventato il paradiso terrestre. Non si vedevano Vucumprà, non si vedevano Vulava, non si vedevano Butulà, non si vedevano Vustupra. Ma come si fa? Era diventato la Torino degli anni 70. Come si fa a dire Vustupra? Come se quali degli stupri li fanno anche gli italiani, Vustupra, ma perché deve dire Vustupra? Scusi, Vustupra è, diciamo, quelli che stuprano, mica Vustupra. Ma gli italiani fanno gli stupri anche, non ce la fanno più, magari vorrebbero ma non ce la fanno. Devo dire che Vustupra, io non generalizzo. No, non generalizzo, perché sappiamo benissimo che se appena uno generalizza ci arriva subito la mazzata. Ho capito, però ci sono dei morti a Prato, ci sono 7 cinesi che sono morti, questo è il dramma vero. Certo, ma se la sono cercata, secondo lei, e secondo me oggi è il caso proprio di essere durissimi. E anche più che duri, di essere verbalmente violenti verso quelli che hanno consentito questo sfruttamento, perché questa povera gente è morta perché veniva tenuta in questo non c'è con dubbio. Le sbarre ma fuori. I sindacati hanno qualche colpa, i sindacati? No, i sindacati sono delle belle facce di merda. Tipo chi? La Camusso? Una cosa perché dovrebbero tutelare, oltre prima di tutto i nostri lavoratori, ma anche i lavoratori stranieri. Cioè, ma allora chi è la faccia di merda? La prima in assoluto, il primo in assoluto, la CGL? Io dico adesso, al di là delle battute, sì, una responsabilità oggettiva pesantissima i sindacati ce l'hanno, perché i sindacati sapevano e non sono intervenuti. Ah. E loro continuano a dire accoglienza, sì, solidarietà, tutte belle cazzate che non significano assolutamente nulla nel momento in cui c'è lo sfruttamento. Ma da soli che facevano i sindacati? Scusi, Borghezio. Però scusi, Borghezio, io voglio dire una cosa, ma la questione dei cinesi, questi qua un po' se la sono cercata perché vivono in queste condizioni oppure no, questi cinesi? No. I lavoratori cinesi sono, secondo me, a questi morti innocenti, il cavalierato del lavoro, perché è gente che lavora più di noi, sì. Questo è, però scusi un attimo, lo sa che cosa hanno detto oggi? Se hanno un difetto è che lavorano troppo, lei dice, certi imprenditori disonesti, sì, cinesi e italiani li prediligono ai nostri. Ma scusi, anche chi gli affitta i capannoni, anche i controlli che sono mancati. Io che ho, diciamo, sì, così, la religione del lavoro, sì, dico che di fronte a queste persone, non perché siano morte, ma anche da vive, sì, per la loro voglia di lavorare, per, sì, il loro spirito di sacrificio, bisogna togliersi tanto di cappello. Cioè, meglio i cinesi, la nostra economia. La nostra economia non, sì, consente l'entrata di questi lavoratori sottopagati e scusi, Borghezio, ma schiavizzabili. Meglio i cinesi dei meridionali per quanto lavorano, dice lei? I meridionali ormai sono diventati come i meridionali che vivono in Padania sono come padani. No, ma quelli che vivono giù, dico io, quelli che vivono giù. Gli innumerevoli pregi dei padani e anche qualche difettuccio dei padani. Scusi un attimo, ma lo sa che in realtà oggi non so chi ha detto che a Prato le illegalità sono poche rispetto a quelle che ci sono a Napoli? Cioè, ma in linea generale può darsi, fuori dagli opifici, perché a Prato le illegalità sono tutte dentro gli opifici. No, però dice, e questa è la cosa grave, cioè uno magari a Prato gira e non lo rapinano, perché i cinesi vengono tenuti dai loro sfruttatori dentro le fabbriche, dormono lì e non possono fare niente, muoiono anche lì, nessuno sa che. Però secondo lei dove ci sono più legalità, a Prato o al sud? Qualcuno dice al Napoli sud? È un, lo vediamo anche adesso con una cosa immonda, incredibili vicende di Pompei. Napoli e la Campania sono un unicum nel mondo occidentale. Nel mondo occidentale, certo. Direi una medaglia negativa sul petto della Repubblica Italiana. Lei dice, lei dice. Questo è il diciamo che cioè sono il buco nero dell'Italia. Sono il buco oggi, non per colpa dei napoletani, di tutti i napoletani. Ma comunque il buco nero dell'Italia. Napoli è oggi una vergogna per l'Italia. Questo, una vergogna per l'Italia. Anche perché i magistri, con o senza De Magistris, certo, la situazione non è cambiata, semmai è peggiorata. E comunque lo sa che la città dove si vive peggio, secondo una statistica del Sole 24 Napoli, ore, peraltro. Sì, Napoli. La città dove si vive peggio e in assoluto. Questo fa capire benissimo, perché sì, tutti sanno che prima di questa situazione Napoli era vivibilissima, no? Il ricordo storico, una delle città. Io ho appena laureato e ebbi modo di fare delle ricerche archivistiche. Mi ricordo benissimo la corrispondenza dell'ambasciatore piemontese del grande regno di Sardegna a Napoli, che scrive al genitore e dice: qui a Napoli papà mandami dei soldi per comprarmi gli abiti, perché qui tutte le sere c'è l'unico modo per Napoli, Torino. L'unico modo per salvarsi di Napoli è staccarsi dall'Italia, dice lei. No, l'unico modo del nord per salvarsi è staccarsi da Napoli. No, addirittura, ma staccarsi da pubblicità. Questa è la cosa, diciamo, l'esigenza prioritaria. Pubblicità, torniamo subito. Devo dire che già sta impazzando la battuta dei Vustuprà. Vustuprà è bellissima, è Vustuprà, ottimo. Era diventato il paradiso terrestre. Non si vedevano Vucuprà, non si vedevano Vulavà, non si vedevano Vuculà, non si vedevano Vustuprà. Mettiamo cerani sui Balcani che vengono lontane le zanzare. Siamo qui con Mario Borghezio, europarlamentare della Lega Nord. Come si fa? Borghezio, ma lei si ricandida al Parlamento Europeo o no? Ci può dare questo annuncio o no? Ma sa, la vita è lunga. Beh, ci dia questo annuncio. Quante preferenze ha preso l'ultima volta? Io direi, sarei ovviamente disponibile, perché ritengo che questo sia un mestiere che si impara negli anni, quindi ho appena cominciato a imparare. Però sa, tutti conosciamo com'è la legge dei partiti, per cui per cui non si ricandida. No, dico, non mi stupirei, magari che il mio movimento decidesse di ricandidare altra gente più giovane. Io sono a disposizione, ma no, non è che capito. Sono proprio, può dare ancora la, ma lei con tutti i processi in video chi sarà presente nelle nostre file, perché quindi vorrei esserci, perché questa volta arriveranno dei, sì, almeno 100 Borghezio, nel senso che i movimenti che definiamo sono populisti, estremisti, sì, anti-euro, eccetera, xenofobi, razzisti, senza essere naturalmente, noi non lo siamo, no, certo che no, razzisti, sì, populisti, sì, sì, sì, saranno molti, io penso un bel centone. E quindi fra i due grandi gruppi, sì, democristiani e socialisti, sì, un gruppo di stronzi, stronzi nel senso di questo genere di moderati, con dei valori comuni determinati, moderati magari non tantissimo, però molto determinati, capisce, direi spettacolarmente scatenati contro la dittatura di Bruxelles. Ci vorrebbero. Avrà sicuramente una grande efficacia, ne vedrete di tutti i colori. Ah, su questo non c'è dubbio. Scusi Borghezio, lei alla fine vota per chi alle primarie della segreteria della Lega? Salvini o Bossi? Il voto, prima di tutto devo ancora decidere, perché devo mancano 5 giorni. I programmi quando parleranno. Ma chi è più indipendentista tra i due? Chi è indipendentista? Però, nessuno. Molto apprezzato a Torino, anche ultimamente, ma anche a Milano, le dichiarazioni fortemente indipendentiste di Salvini. Oggi che ha alzato questa bandiera, direi che lo si può votare con una certa perché è un po' tiepida la Lega ultimamente su questa roba dell'indipendentismo, mi pare un po' tiepida. Vabbè, un po' tiepida negli ultimi tempi, e dire poco, direi molliccia. Adesso sembra che si cambi registro, poi anche questa bella apertura dell'invito al congresso di Marine Le Pen dell'estrema destra, degli austriaci e del PIO, di tutti moderati, quelli che piacciono a me, questo è un lato positivo. Salvini forever, insomma. Salvini, la Lega sembra che ce l'abbia di nuovo Duretto. Ancora non duro, ma Duretto. Mi sembra, e con le idee chiare per Con Salvini la Lega ce l'avrebbe di nuovo Duretto. Che bella compagnia. Secondo me sì. Si profila questa perché ultimamente era proprio una spugnetta, e anche battagliera. Scusi un attimo. Una Lega segaiola non serve a niente. Non serve a niente. Scusi un attimo. Dunque, ci sono i democristiani e i compagni per quello. Scusi un attimo, ma la Chiang ha letto che la Chiang appoggia Renzi? La stupisce? Guardi, io a Renzi non volevo così male da augurargli un simile appoggio. E in fondo è un bravo ragazzo, un po' coglione, però simpatico. Perché è un coglione, dice lei? Un ragazzo onesto. Perché è un po' coglione? Un augurio, sotto la camicia bianca c'è niente. C'è poco. Nulla assoluto. E però diciamo che un appoggio di questo genere, io non so se chi gliel'abbia mandato, forse la banda Prodi, perché lì il giro è quello, è delle cooperative che aiutare gli extracomunitari. Comunque fosse per lei, Renzi dovrebbe fare gli scongiuri per l'appoggio della Chiang, dice lei. Sì. Un bello scongiuro toccando gli zebedei, è una regola, perché secondo me porta anche un po' maluccio la Chiang. Porta male, perché sono ministri. Per carità, però toccarsi i coglioni parlando della Chiang è sempre positivo. Ma non si può dire così, ma perché? Non si può, però si dice. Alle volte ti scappa, ecco. Ha detto vu stuprà, che è una cosa pazzesca, vu stuprà, come se gli immigrati fossero stupratori, scusa. Vestita di viola, non so se avete notato, spessissimo di viola, sì. Si mette anche del suo, spessissimo di viola. Poi lo sguardo anche un po' obliquo, eccetera. Ce l'ha l'aspetto della portagramo, però è una brava persona, sia chiaro. Ha detto non usiamo termini offensivi, perché siamo di fronte a un ministro della Repubblica Italiana, quindi di per sé un'autorità indiscutibile. Basta guardarla in faccia. Ho capito, mi pare un po' eccessivo questo. Lei dice non emana autorità, dice lei, no? Non trasuda autorità. No, purtroppo emana autorità negativa. Io non sono napoletano, però mi tocco i coglioni. Però scusi un attimo, se non lei... sono napoletano, però tuttavia ritengo che non sarebbe male prendere delle precauzioni. Scusi un attimo, ma se lei fosse il capo della polizia a Napoli, cosa farebbe? Beh, io penso raderebbe che, al suolo, guardi, diciamo la verità, radere al suolo. Sappiamo, tutti sappiamo quale sia il giudizio storico, che io ovviamente non esprimo. No, per carità, detto persino prima. I tedeschi non ce l'hanno fatta a inquadrarli. I tedeschi, cioè, in che senso? Dell'epoca, ci sì, siamo capiti. Quella, che piace, quella nostra. Quella Borghezio nella sua umiltà. Sì. Nemmeno Borghezio ha di possibili a Denethor. Ad impossibile, cioè lei, Denethor, cioè lei dice neanche i tedeschi, diciamo nazisti, no. Nemmeno no. I nazisti riuscirono a hanno depredati a dovere, e quindi guardi, non c'è scampo. Ma come si lì, fa a dire una cosa? Adesso non vorrei ripetere la performance dei Rom, che uno sta a casa, arrivano loro, eccetera. Che però poi hanno interpretato male il mio pensiero, sì, che è generoso e benevolo verso queste generose adeguatamente tutelata dall'Unione Europea. Però scusi un attimo, che c'entra, perché lei dice li hanno depredati chi? I nazisti depredarono Napoli, no? No, al contrario, dice i napoletani alleggerirono allegramente, hanno alleggerito sempre tutti, tedeschi, americani, sono stati dei maestri, cioè non li hanno inquadrati nemmeno loro, quindi figuriamoci se li inquadra il povero Borghezio. Beh, meno male che non li hanno inquadrati. Però. Beh, come c'è la resistenza intendo a Napoli. Intendo dire sul piano, diciamo così, dell'ordine. No, lei dice ci vorrebbe diciamolo, per raddrizzarli ci vorrebbe lui, no? Lui. Forse no, solo guardi, lui. Non c'è riuscito nemmeno lui. Lui ce la potrebbe fare, forse lui ce la... No. Nemmeno Mussolini ce la farebbe. Vogliono forze extraterrestri. Nemmeno lui ce la farebbe. Beh, però adesso il governo, ha visto che ha fatto il governo per bruciare i rifiuti è reato. Vabbè, sì, ma quello perché prima non era reato, io non lo capisco. Questa cosa pazzesca è che prima non era reato, cioè potevi poi appiccare fuochi e non ne costituiva reato. Ma è una cosa questa. Da oggi però bruciare i rifiuti è reato, questo è importante, no? Bah, sì, sarà importante Borghezio questo? Sì, il guaio è che non c'è nessuno che dà la multa. E dice, la multa, la norma, ma a Napoli, perché non è che sia lecito il contrabbando, lecito il faccio di droga, lecito il sfruttamento della prostituzione, lecito fare schifo per la strada. Ma lei viverebbe a Napoli, ma mai? Guardi, io la prima volta ci sono stato, appena laureato, sono andato a fare un concorso avvocato, di assistente per storia del diritto italiano. E è scappato a Gambella perché poi chi ama i libri eccetera sta fantastica, però... era però il 71 l'anno della mia laurea era ancora vivibile, era ancora straordinariamente. C'era la partita della nazionale, il proprietario di una gigantesca libreria antiquaria mi ha lasciato a fare anche il custode perché dice così c'è lei, guarda lei la libreria, io corro a casa e mi guardo la partita, e mi ha lasciato lì con una fiducia assoluta, non mi aveva mai visto e conosciuto, quindi gente straordinaria. Se lei va adesso, qualche problema lei se ci va incontro. No, ma guardi che io sono tornato di recente. Non le hanno detto niente? L'antiquario non tiene i libri antichi in negozio perché non si può permettere di tenere un libro antico in negozio. Perché lo rubano. La situazione è questa. Perché lo rubano, dice lei, Lo no? tengono in cassaforte lontano dal negozio. Così. Questa è la situazione di Napoli, quindi è fuori dalla legalità. Poveri napoletani, perché sono la gente più simpatica del mondo, e poi hanno inventato tutte queste tecniche contro le persone, non voglio citare, che portano disgrazia, che sono sempre utili perché nella vita è Scusi, però Borghezio, io devo dire una cosa. Lei, tu sai, devi sapere una cosa, Parenzo. Per alcune cose dette qui alla Zanzara sui Rom, signor Borghezio rischia di essere condannato. No, nell'ambito, ricordiamo una cosa, nell'ambito di uno scherzo, perché ironizzando nella maniera più evidente. Comunque rischia la legge Mancino, cioè rischia accuse di razzismo. C'è la gente a tempo da perdere, è una cosa pazzesca. Mentre la camorra dilaga, i reati gravi sono di uno che cazzeggia un po' allegramente con una trasmissione simpatica nella quale si dicono cose serie e poi si scherza anche. Però questo magistrato non sa che appena arrivato in Consiglio Comunale di Torino io seppi da un vigile che in un campo nomadi c'erano nella mia città una situazione di disagio delle famiglie con i bambini dovevano essere e andai là e nessuno si occupava di una famiglia che aveva un bambino con la febbre e io telefonai al poi lo racconterà servizio pubblico, lo racconterà al processo. Non volevano venire perché avevano paura di venire in quel campo. Allora io minacciai il medico e gli dissi che se non veniva lo andavo a prendere io di brutto, è venuto. Poi lo racconterà al processo. Borghezio, le voglio chiedere una cosa. Queste cose qua le fanno i leghisti, che come quel sindaco che hanno messo dentro, hanno messo gli arresti domiciliari perché ha costruito un palazzo dello sport facendo lavorare gratis un'impresa. Sì. E c'è sempre qualche stronzo che lo accusa e lo mette sotto inchiesta. Cioè il PM che ha quel PM stronzo alla toga rimane sempre uno stronzo. Cioè lei dice quelli che hanno accusato Lancini per, sono per quella cosa lì è hanno fatto una cacciata che se fosse un paese serio il ministro Cancellieri, come ha fatto in questo caso, ho sentito questa sera ai telegiornali, dovrebbe sentire il dovere di mandare gli ispettori, perché non si mette agli arresti domiciliari la persona onesta. Cioè il PM, quello là in quel caso è uno stronzo. Ha trascurato le forme delle procedure per gli appalti, ma non si è messo in tasca una lira e ha fatto una cosa utile per il suo paese, per i ragazzi che vogliono andare a fare. Senta, detto con tutto il rispetto, per concludere, ma lei di Napolitano alla fine che idea si è fatto, il signor Napolitano? Mi sono fatto la stessa idea che si sono fatti i napolitani monarchici che erano in piazza Medina, cioè? E che sono stati falciati dalla polizia mentre Napolitano era in questura e forse ne sapeva qualche cosa. Cioè Napolitano ha sulla coscienza dei morti dei monarchici negli anni... Dicono gli ultimi recenti studi storici che qualcosa ne sa. E dunque che basta idea si è fatta? Basta vedere il sito di storia. Vabbè. Ma che idea si è fatta? Storica, e dunque Napolitano che cos'è? Storica. E dunque che cos'è Napolitano? No, io dico che è un vecchio comunista che... Sì. È sempre stato presente nei momenti negativi della storia italiana. Un vecchio comunista. Va bene, grazie Marione, a presto. Arrivederci. Saluti. Ciao. Ciao. Napoli monarchica. Ciao. Sono qui Nino, provincia di Salerno. Buonasera. Buonasera signor Cruciani. Dica. Volevo dare il mio contributo sull'argomento che avete trattato e tuttora state trattando. Sì. Io faccio il rappresentante, quindi giro moltissimo in auto. Sì. E spesso mi tocca fare la strada da Caserta Sud a Napoli per le strade interne. E da Caserta Sud a Caivano, che sono circa 3 chilometri. Sì. Ne ho contato una mattina ben 18 di queste ragazze, povere ragazze, perché poi io vorrei vedere il bacchettone, vorrei invitare a spese mie, vitte, alloggio e i signori Giovanardi e quanti per vedere queste povere ragazze, le sofferenze atroci. Vabbè, non allora... è uno scandalo sessuale, uno scandalo umanitario. C'è cioè cosa? Che ecco, stanno sulla strada? Che cosa? Queste ragazze. Ma che cos'è uno scandalo? Non ho capito. È uno scandalo a non aprire le case che la Merlin fece chiudere. Sì, ma non è che automaticamente queste case, una volta che si aprono le case chiuse, non è che automaticamente scompare la prostituzione per strada, non è così automatico. No, no, certo. Ma comunque almeno si salvaguardano queste ragazze. Sì, per carità. Che soffrono il freddo in inverno e il caldo in estate, a contatto con polvere. Ma lei ci va ogni tanto? Ma io ormai non ci vado più da anni. Poveretto. Voglio perché? Dire, non è uno scandalo andare o non andare con le persone. No, ma perché non ci va? Perché non ci va? Lasciateli. Dove stanno questi magistrati? Che sono 14 anni. Io, signor Cruciani, io la invito a venire qua, mio ospite, vitte e alloggio. Ma adesso non c'è bisogno, non si può. Sono ragazzine, 14, 15, 16 anni, 17 anni. Principalmente sono queste ragazze di colore, però ci sono pure le bianche ormai, quelle dell'est. Non mi scandalizzo che ci stanno queste ragazze, perché poi sono 6 minuti, perché poi devono, come si dice, la propaganda è l'anima del commercio. Questo ti fanno pure sbattere, perché mentre tu arrivi con la macchina, loro ti girano da dietro e si abbassano e te lo piazzano in faccia, insomma. Che te piazzano in faccia? È un buon spettacolo. Voglio dire, ma non è questo che mi scandalizza. Ma cosa ti piazzano in faccia? Il culo, dice lei. Il culetto bello, senza nessun copertura, né mutandine né altro. Se le vede come tremano dal freddo, dal vento, queste cose. Bella, intanto guarda, le case, queste qui dovrebbero iscriversi a un collocamento, iscriversi e pagare i contributi, così quando a 50 certo. anni nessuno più le aiuta. Allora, se lei fa il calcolo della massaia, no? Io ho contato 18. Se queste guadagnano a dir poco 500 euro al giorno, in un giorno 18, quanto sono? 5 per 8, 40, sono 9.000 euro al giorno. Di IVA sarebbe 1.800 euro. Vabbè, ma qui però... In un anno poi dovrebbero pagare i contributi INPS e quant'altro. Sì. Perché non li risolleverebbero l'INPS con queste cose qua? Ma vabbè, da una parte, una legge... è pazzesco questo, che da una parte fa il buon samaritano, però dovrebbero assumere lui, e dall'altra fa i conti in tasca, si dice no, ma sono sfruttato, piccolo, non deve fare il bacchettone pure lei. Ma lei non faccio nessun bacchettone, ma anche lei si mette d'accordo con se stesso, però i soldi per tutto, ha per ragione lui, e quant'altro. Sì. L'INPS l'altro giorno a Trapasqua disse che un po' tra poco, sì, ma o lei condanna la prostituzione minorile oppure che fa, metta fai i conti. Questo è uno sfruttamento vero e proprio. Non voi discutete dei cinesi che sono morti, le stanno, certo, chiusi nelle case, non vedete questi qua che stanno sulla strada, che soffrono. Altro che 12-13 ore che bravo, fanno. Bravo. È grazie Nino, abbiamo credere. Grazie, traffico. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Dite minchiate a palate e non si ride più delle cazzate che dite. Sei una capra! Pure lo spray a di zanzara mi sono messo. Giovanni da Prato. Oh, buonasera. Buonasera, dica. Ma una pennacchia a Borghenzio gli si può fare in diretta? Fai quello che vuoi, fai quello che vuoi. Un attimo. Dobbiamo collegarci con un ministro che da un po' di tempo non sentiamo. Aspetta che squilla. Aspetta, squilla. Pronto. Oh, ministro Cancellieri, buonasera, come sta? Che buonasera, Cusciari, che dolore. Che è successo? Che è successo? Com'è che è successo? Eravamo preoccupati, è sparita la circolazione. Ma certo sono sparite, per forza, sono caduta dal letto a Castello. Perché lei dorme sul letto a Castello? Sopra, per giunta. Sì, dormo sì, in un letto a Castello. Ma non dormi in un letto matrimoniale? Ma scusi. No, ma che letto matrimoniale? Ci sono detenuti che dormono in letti a Castello in sei file. E che c'entra lei? Vabbè, lasci perdere. Ma che c'entra? Io sono solidale. Ah, ho capito. Sono cristallina. Per solidarietà nei confronti dei carcerati, sì, sì, e per dimostrare che non esistono differenze tra ricchi e poveri, sì, mi sono comprato un letto a Castello a sei file. Ma come letto a Castello a sei file? E poi è che io c'ho il terrore di questi letti a Castello, e ho pure dormito in sesta fila. Cioè, non ho capito, lei bene, casa io voglio sua. Bene a tutti i carcerati, non voglio assolutamente differenze tra ricchi e poveri. Vabbè, ho capito, però ministro, scusi un attimo, lei ha, per solidarietà nei confronti dei carcerati, ha comprato un letto a Castello a sei file. Sì, e ci ho dormito con la sesta fila. Ed è caduta, e te credo. È un disastro. Te credo, lei pure è bella pesante, massiccia. Vabbè, si guardi a lei. Sono stavazzata al suolo e messo lussata pure la spalla con la bora. E più ho provocato danni alle fondamenta della casa, migliaia di euro. Meno male che sono assicurata alla Fonsai. Lei ha assicurazione Fonsai? C'ha pure questo. Non è proprio il massimo della trasparenza, comunque va bene. Cioè, lei è assicurata con gli cresti in pratica, no? Vabbè, certo. Comunque non è che problema c'è, sono trasparente, io sono cristallino. Sì, io è cristallino, sono assolutamente limpido e cristallino. È cristallino, vabbè, tanto partivo le telefonate, vabbè. Aspetti, ombrosità. Però scusi, inaccettabile per me. Sì, io non ho capito una cosa. Alla fine lei come sta? Si è ripresa da questa vicenda dell'attacco di Renzi? Sto male, dell'attacco di Renzi, dico io. Ma che me frega dell'attacco di Renzi? Una catastrofe inusuale e vergognosa. Ma cosa? Assolutamente vergognosa. Ma cosa? Una cosa scandalosa. Ma cosa è scandalosa? Delle carceri parlerà. Ma cos'è scandaloso? Ma no, che carceri? A Roma! Ah, la Roma! Ma pensi un po', Cruciale, 4 pareggi e fuga dalla Juventus. Juventus. Ma scusi, lei, ministro, con tutte le cose che ci sono, le carceri italiane, la vittoria di Renzi. Però lei pensi, mi scusi, Cruciale, però sì, ci sono delle cose. Guardi, a poche cose io tengo, ma l'onore deve essere salvo. Ma che c'entra l'onore con la Roma? C'entra, perché ci hanno pure negato due rigori. Ma lei è ministro della giustizia, che vuole fare? Uno su Gervinho, e uno per evidentissimo fallo sul tiro, fallo di mano, sul tiro di Maicon. L'ha visto pure lei, perché vabbè, lei sta dall'altra sponda, quindi. Ma scusi, lei con tutte le cose che ci sono in Italia pensa sempre alla Roma? E ci mancherebbe. No, ci mancherebbe, perché? Ci mancherebbe. Poi io sono ministro della giustizia. E allora? Quindi... che vuole fare? Un'interrogazione parlamentare? Un'iniziativa sugli arbitri italiani? No, io sono sportiva. Respingo al mittente sospetto che esista una giustizia di classe tra squadre di un certo blasone ed altre. Vabbè. Squadre di Serie A e di Serie B. Ricchi e poveri. Vabbè, allora, se lei respinge il sospetto, allora... Infatti non è un sospetto. È una certezza, arbitro conduto. Ma no, ministro, si era accecato di portarci tu. Ma go, ministro, vabbè, questa è sbroccata. Dopo questa cosa è sbroccata. Vabbè. Che dolore. Grazie, ministro. È venuta pure una policastrito per lo scapolare sinistra, che pure, pure quello. Grazie, grazie, grazie. Ah, chi c'era? Giovanni da Prato. Allora? Oh, allora, volevo ripetere la pennacchia, che forse Borghezio non l'ha sentita. La pennacchia a Borghezio, dai. Vuole fare una pennacchia a Borghezio, vabbè, d'accordo. Ma, io, no, ma mica solo a Borghezio, poi, ma parlano loro della Lega, c'avevano boss, non era nemmeno laureato, con il figlio Caprone, là, com'è, la trota. Trota l'albanese. Ok, c'hai condannato 30 minuti ad ascoltare quelle baccianate su Napoli, no? Su Napoli, ma sì. Lui che, ma lui nel cervello c'è solo la nebbia, ma che cazzo ne sa di Napoli lui? Beh, ma faceva delle considerazioni, certo, un po' pesantine, sì, moderate. Molto pesanti, certo. Moderate. Molto pesanti. Vabbè, sentiamo appunto. La gente si offende. Vabbè, se lei si offende, ha possibilità di rispondere. No, Antonio. No, no, certo, mi hai fatto sfogare. Antonio Napoli. Buonasera. Siamo dalla provincia di Napoli. Sì, dimmi Antonio. Volevo mandare un grandissimo vaffanculo a Borghezio. Sì. Perché prima di parlare di Napoli, la prima cosa che dovrebbe fare è mettersi a dieta e poi... Vabbè, che c'entra la dieta? Questioni fisiche, però. Che c'entra? Vabbè, allora perché, Antonio, non ho capito. Perché Napoli è piena di coglioni come Borghezio, ma non solo Napoli, l'Italia intera. Perché sono persone che, come Borghezio, che rovinano la nostra democrazia, sì, che hanno rovinato la nostra Italia. Vabbè, come Franco, se avete... come Borghezio, Antonio, non si riesce mai a concludere niente. Non si riesce a concludere. Franco, provincia di Milano, su, Franco. Sì, pronto? Dimmi. Faccio un appello, smettiamo di fare queste trasmissioni qua, da quello che può essere la Zanzara, quello che può essere il Report, le Iene, lasciateci nella nostra ignoranza. 40 anni fa non sapevamo queste cose, succedevano, adesso le sappiamo, le sappiamo, e praticamente questi continuano a fare quello che vogliono. Ci meravigliamo e ci scandalizziamo perché a Prato ci sono queste cose qua. No, questo infatti ma è ridicolo. Che ci sono. Bravo. Ma scusa, poi anche le case d'appuntamento, ma i centri di benessere cosa sono? Un mese fa l'Iena ha fatto un servizio che ha detto chiaro e tondo a cosa servono. Cioè questi possono fare a casa nostra quello che vogliono, no? E noi non possiamo fare le case, dobbiamo fare su un casino della Madonna per cercare di prendere in considerazione di riaprire le case di appuntamento. Quando a Milano ci sono censiti 220 centri benessere, sappiamo perfettamente che nei centri benessere non si fanno certi massaggi, ma se ne fanno ben altri. Certo. Il compro oro, le slot machine, ci hanno rotto le palle tutti. E in ogni caso, vi ripeto, c'è queste trasmissioni qua, basta, ne abbiamo piene, tanto non si risolve niente. Vabbè, ho capito, se non ci fossero, ho capito, se non ci fossero, però sarebbe peggio. Grazie Franco, grazie. Oh, è tornato il professore avvocato Carlo Taormina. Buonasera. Professore, come sta? Quando ci sono ma guai... io sto bene, ma vedo che questa trasmissione è diventata un modo per maltrattare i suoi conduttori, perché lo so, ci attaccano. È una cosa incredibile, veramente anche indegna. Direi indegna, sì. Anche quest'ultimo interlocutore. Sì. Se non ne parliamo nemmeno qui, questo diventa un paese veramente di gente che non, certo, non ragiona più. È certo. Professore, scusi un attimo, ma ho avuto una notizia clamorosa, cioè lei ha preso in mano la difesa di Ciancimino Junior. Sì, esatto, l'altro è morto. Beh, una notizia pazzesca, cioè è diventato il difensore di Massimo Ciancimino, grande protagonista del processo Stato Mafia, pentito. Quanto c'è casino, c'è Taormina, questo devi stare proprio sicuro. Scusi. Perché bisogna regolare le cose, quindi se c'è casino bisogna eliminarlo. L'importante è capire la parte giusta qual è. Ecco. Ciancimino. Scusi professore, ma la cosa è sempre fondamentale, ma lei i soldi li piglia o no? Prima ancora da Ciancimino. Perché là è... io non faccio mai niente senza soldi. Ha già saldato la parcella in parte? Saldato no, perché ancora non abbiamo cominciato, per cui dobbiamo... Però un anticipo se l'è fatto dare. In itinere. Ecco, dunque ce l'hai i soldi Ciancimino? Perché hanno fatto dei sequestri di... Ah, non lo so io se c'hai i soldi, a me basta che mi paga, poi dove li prenda i soldi non mi interessa. Io sono carissimo, io sono un avvocato... Ma lo sa quanto è caro Taormina Ciancimino? Cioè, lo sa Ciancimino? Io sono caro, una cara persona sono. lei deve, quando le dicono che lei è caro, sa cosa deve rispondere? Come, che sono quando, caro, che anch'io, sono quando, caro. Quando alle volte mi dicono, ma l'Iperenzo è caro, dico le cose belle, però si pagano le cose buone. Quindi lei deve sempre dire così. Quindi c'è battaglia adesso, eh? C'è battaglia, allora, c'è battaglia. Con Napolitano deve, lei lo convocherà come test? Beh, no, non lo convoco io, lo convocherà il presidente della corte e naturalmente io avrò il privilegio di poterlo interrogare personalmente. Ma non si sarà mai, no. Non accadrà mai, credo, guardi. No, accadrà. Le pare che Napolitano si fa interrogare da Carlo Taormina? Napolitano si farà interrogare da Carlo Taormina. Tenga presente che io ho già avuto un contenzioso con... Un contenzioso si fa per dire, perché questo è un paese nel quale basta che parli di qualcuno che sta sopra a uno scalino, già non puoi fare più niente. Non io sono stato adesso grido. Adesso ce lo racconta un attimo, tra un attimo ce lo racconta. Abbiamo un'interruzione adesso tra poco. Guardate che vengo lì di pigliarti in culo. Grosso e un abbraccio forte. Ciao. Siamo in diretta con l'avvocato professore Carlo Taormina, che è diventato da pochi giorni il difensore di Massimo Ciancimino. E beh, la trattativa Stato-mafia, eccetera, eccetera. Cosa stavi dicendo al professore? No, ricordavo al professore e a tutti i radioascoltatori che sarà impossibile vedere Napolitano interrogato da Taormina, perché non ci verrà. Non ci verrà mai. Che non dice, professore, lei che dice? Neanche se lo prende coi carabinieri. Allora, la situazione è questa: e come testimone è stato ammesso, ha chiesto di non essere interrogato nell'aula bunker di Palermo, giusto. E come del resto è accaduto in altre occasioni, per esempio quando è stato sentito Giulio Andreotti, che era presidente del Consiglio, e fu sentito nell'aula magna qui della Corte di Cassazione, c'ero anche io. Sì. Quindi andremo al Quirinale e faremo l'udienza al Quirinale. Cioè, lei andrà al Quirinale? Come? Certo che ci vado, perché non ci debba andare. E ci vado con grande soddisfazione e anche con determinazione. Perché? Perché io sono rimasto scottato da una esposto che feci al comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa nei confronti del Presidente della Repubblica, in cui segnalai come quelle intercettazioni telefoniche che erano state pubblicate da vari giornali a proposito della questione Mancino con il Quirinale, con il povero D'Ambrosio, eccetera, fossero la dimostrazione, c'era anche in mezzo l'attuale Presidente del Senato, Piero Grasso, eccetera, erano chiaramente il segno di una interferenza dell'attività della magistratura da parte del Presidente della Repubblica. Cioè, è stata una vergogna il fatto che lui si sia interessato, abbia parlato con Mancino dei processi. Io penso che prima di essere una vergogna è una cosa assolutamente grave sul piano costituzionale. Si trattava di andare a gamba tesa dentro a un altro potere dello Stato, quello della magistratura, per fare in modo che quel processo di Palermo avesse delle deviazioni. Quindi lei è disposto ad andare al Quirinale per interrogare Napolitano? Ma io sarò obbligato ad andarci. Lui vuole fare solo una comunicazione. Napolitano si vuole limitare a una comunicazione, scrivere una lettera. La comunicazione la farà il suo segretario generale, da noi dovrà rispondere alle nostre domande, non può fare. Quindi lei si presenterà lì, arriva Taormina, salve, chi è? Dicono i corazzieri. Qual è il problema? No, io andrò insieme al tribunale, alla corte d'assise, naturalmente andremo tutti. Ma lui non vuole. Ma non vuole. Non vuole. Lui si frega, c'è niente da fare, questa è la situazione. D'altra parte, finalmente che qualcuno lo interroghi su quello sul ruolo inquietante che sta giocando in questa Repubblica da Mario Monti in poi, insomma, mi pare che c'è stato uno stravolgimento della Costituzione repubblicana da parte del Presidente della Repubblica, sulla quale nessuno parla più, perché questo è un paese nel quale le cose serie non si discutono. Cioè, lei sta dicendo che è una specie di colpista napoletano? Dice inquietante. Io ho fatto una denuncia proprio perché venisse sottoposto al procedimento d'accusa. Ma addirittura? Ma come si fa? Cioè, secondo lei ha violato la Costituzione? Ma scusi, ma perché anche Grillo non sta facendo la stessa cosa adesso? Ho capito, non è che se lo fa Grillo è giusto. Oddio, ma guardi, sa, più andiamo avanti e più mi rendo conto che forse quello che fa Grillo è giusto. È diventato Grillino, mi è diventato Grillino, avvocato. Io sono sempre un liberale, se la rivoluzione liberale non si riesce a fare da chi dovrebbe farla, a cominciare da Berlusconi, beh, da qualcuno bisogna farla fare. Credo che quello che ha detto domenica a Genova Grillo sia stato illuminante e fondamentale per tutti noi. Su Napolitano, dice lei. Per noi italiani, sul Napolitano e sul resto. Su Napolitano e sul resto. Cioè, ma lei si candiderebbe con Grillo, avvocato? Ma quello non mi prende, figuriamoci, mi prende a me, non ci mancherebbe altro. No, beh, quello prende gente dal web, gente che non ha fatto il deputato. Appunto. Beh, servirebbe un avvocato d'assalto come lei a Grillo, servirebbe come? Lui ha un fratello che fa l'avvocato, per cui non ha bisogno di avvocati. Beh, lei lo conosce, tra l'altro, no? Il fratello di Grillo? No, non l'ho conosciuto io. No, scusi un attimo, ma se Napolitano insiste che non si vuole fare interrogare, vuole solo fare una comunicazione? Se si presenta, se sarà in aula, comunque al Quirinale per essere sentito e non risponde, quella è reticenza, e quindi, come tutte le testimonianze reticenti, sono previste dal codice penale, e quindi naturalmente si dovranno trarre le conseguenze. Scusi, ma Ciancimino al confronto di Napolitano è un galantuomo, secondo lei? Ma guardi, qua di galantuomini è sempre più difficile trovare. Ciancimino al confronto di Napolitano è un galantuomo? Guardi, Ciancimino è un personaggio certamente molto, diciamo, sul quale bisogna... Controverso. Ci vuole sempre la tara, per così dire. Però è un suo assistito. Però sai che le voglio dire? Mi dica. Siccome questo è un processo, naturalmente, nel quale non è che possiamo andare contro la mafia, perché qui la mafia ha fatto il suo interesse, l'ha fatto bene, allora? Ha cercato di farlo, ha ottenuto 341 bis eliminati, quindi insomma ha fatto il suo mestiere. Questo è un processo contro lo Stato mafioso, che è una cosa diversa. Lo Stato mafioso, ma secondo lei, non ho capito, Napolitano è l'impersonificazione di questo Stato? No, Napolitano con le questioni di cui si tratta in questo processo certamente non c'entra, ma sicuramente certo che sa, se non sa lui che deve sapere, quello che è accaduto nella vicenda relativa alla posizione di Mancino in questo processo rispetto ai magistrati palermitani, io, lei sa benissimo qual è la mia posizione nei confronti della magistratura, eccetera, però quella è stata un'interferenza pesante. Pensi che mi tocca dare ragione persino a Ingroia. Addirittura, su questa ragione Ingroia. Su questa ragione Ingroia, sì, ragione Ingroia. Beh, no, non l'ho mai sentito. Ma guardi che questa cosa l'ho sempre detto, guardi, non è questa... Però Ciancimino c'ha pure. Ma le sembra normale trascinare il presidente della Repubblica, il garante della Costituzione, in questa melma di processo? Quale Costituzione? Della Costituzione napolitanea. Sulla violazione della Costituzione. Lo interroghiamo per quello che mi riguarda, sul fatto che, siccome la Costituzione prevede il principio della separazione dei poteri giudiziario dagli altri, lui ha interferito. Secondo lei, nel momento in cui un potere dello Stato interferisce su un altro in maniera non corretta e non istituzionale, quella è un attacco alla Costituzione, quindi è un attentato alla Costituzione. Però scusi, Ciancimino, e questo ha fatto Napolitano. Scusi, Ciancimino è stato condannato pure per detenzione d'esplosivo. Ripeto che è un personaggio discusso. Ma Ciancimino ha detto delle cose in parte vissute, in parte riferite dal padre relativamente a quello che accadde in quell'epoca. Allora, se sarà riscontrato rispetto alle sue dichiarazioni prevalentemente battaglia. Io mi voglio divertire, guardi, mi voglio divertire perché, siccome sono pieno di rancore nei confronti di questo stato di merda con il quale siamo aggiunti su tutti i punti di vista, non c'è una cosa che vada bene, è veramente una cosa mi voglio sfogare, è un processo, bisogna trovare la verità, ha ragione. Voglio trovare la verità, voglio sapere se un Presidente della Repubblica che dice di trovare il sistema di poter interferire con la magistratura sia un Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura sia una cosa normale. Ma l'imputato è Ciancimino, non Napolitano, Taormina. Ad oggi lei mi sta ribattendo, stavo entrando in confusione. Rimettiamo le cose a posto. Imputato in quel processo è Ciancimino, non Giorgio Napolitano. Ciancimino è imputato di concorso esterno ed è un altro, è un altro discorso. Qui stiamo parlando, di ciò che non è stato oggetto di contestazione, secondo me, e per questa ragione io ho fatto l'esposto al comitato interparlamentare che battaglia per la messa in stato d'accusa, perché quello secondo me è una cosa certamente integrante un fatto penalmente rilevante. Un attimo solo, avvocato, Mario da Napoli, Mario. Dica. Ma mi dica la verità, secondo lei Napoli è veramente il posto peggiore in Italia dove vivere? No. Le classifiche sono proprio una cosa. Ah, lei dice quelle del Sole 24 Ore, sì, però lì sono dei criteri oggettivi là, lì ci sono. Ma il tempo libero. Noi siamo campioni mondiali, noi italiani di tempo libero. Vabbè, non abbiamo niente da fare dalla però, scusi, da questo punto di vista uno potrebbe dire fancazzismo. Se uno proprio vuole inferire, no? Se uno vuole inferire. Ma no, perché tra i parametri c'è il tempo libero. Napoli è la città da anni che ha più spettatori a teatro d'Italia. Abbiamo più di 30 musei. Abbiamo locali a tutte le ore, tutti i giorni dell'anno. Vabbè, ma ho capito, ma cos'è il tempo libero? Ci sono dei criteri che hanno a che fare con la qualità della vita, l'aria, i servizi, le cose. Se sta attento, però, nelle classifiche della qualità dell'aria, dei servizi, siamo a centro classifica. Noi quella che ci stronca, secondo il Sole 24 Ore, sono i parametri economici. Beh, non solo, anche i servizi. Vabbè, ho capito. Comunque, guardi, però, se uno ci vive bene, poi io credo che a Sondri o Belluno. Un po' diverso, Non lo so. Comunque, Mario, se lei ci vive bene, ma in fin dei conti, ma lei chi gli frega delle classifiche che fa il Sole 24 Ore? Gianfranco da Roma. No, ma è giusto. Questo, ma se lui ci vive bene, ma chi se ne frega delle classifiche, no? Gianfranco? Federico da Bergamo. Buonasera Cruciani, buonasera. Vai, dimmi. Volevo avuto un'idea per prendere due piccioni con una fava, cioè? Per risolvere il problema delle puttane. Ma lì ci vogliono le case chiuse, professor Tormina, ci vogliono le case chiuse o no? Ma qui è tutto un casino, che siamo, per carità. No, io non sono molto favorevole alle case chiuse. E allora, lei ci sarà andato alle case chiuse o no? Ci sarà andato, no? Vabbè, quelle sono cose che abbiamo fatto tutti. Tutti, però, guardi, le case chiuse ci sono sempre state. Ma perché prima erano gestite dallo Stato, adesso sono gestite dai privati, per cui non è questo il problema. Ma per esempio, scusi un attimo, questo Putin che vuole proibire l'adozione, no? Non vuole dare i bambini solo all'Italia perché non adottano le famiglie gay, non possono adottare, no? Cioè le coppie gay, fa bene secondo lei? Benissimo. Come benissimo? Ma professore, dai, benissimo. Fa benissimo, ma dove siamo? Ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma due omosessuali, uomo o donna che hanno il figlio, ma non facciamo ridere. Perché male ci sarebbe? Scusa, ma è una vergogna, scusate, ma anche dal punto di vista della formazione di questa creatura con due lesbiche o con due froci, no? Ma dai. Ma perché? Che male ci sarebbe? Ma lei avrebbe piacere o avrebbe avuto piacere se fosse stato allevato da due lesbiche o da due froci? Ecco, mi domando. Magari sarei perché secondo lei come cresce uno? Ma come cresce? Cresce male, come fa a crescere bene? Ma scusa, abbia pazienza. Ma come non ha le due immagini, quella maschile e quella femminile. Non ha il senso di quello che significa. Scusi, ma perché uno entra in camera che significa vivere un uomo e una donna? Entra in camera da letto, che fa? Vede. Appunto, fa uno schifo di merda che non finisce mai. Ma dai, ma come si fa a dire una cosa così? Come si fa a farle queste domande? Come si fa a farle queste domande? Ma scusi, uno può entrare in camera da veramente vedere due maschi che si baciano, due donne che si baciano in maniera tenera, come esistono già queste cose, Taormina, ci sono già un sacco di bambini. Le faccia lei, Parenzo, le con il suo esercito. Lei da Facebook risulta, ma non è mio l'esercito, non ci sono io, è un nickname, un fake name, non so come si chiama. Allora lo faccia togliere, perché scusi, ma Putin faccia partire una querela. Putin fa bene a punire i gay? Putin fa bene a punire i gay o no? Tutte quelle leggi, no, sì o no? No, no, guardi, la punizione assolutamente no, la propaganda, no. La propaganda. Ecco, la propaganda sì, d'accordo. Su quello sì, perché se ognuno sta a casa sua e si vive le sue diversità, non c'è ombra di dubbio che debba essere rispettato. Questa è una cosa. Però, l'altra cosa sono le sanzioni. Però, però in strada, se pone i coglioni per la strada, certamente poi Putin fa bene. Ecco, questo voglio dire. Arrivederci, professore, a domani. Arrivederci, buonasera. Era diventato il paradiso terrestre. Non si vedevano Vucumpra, non si vedevano Vulava, non si vedevano Vuculà, non si vedevano Vustrupra. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Io sono caro, una cara persona. Che sono caro. Radio 24. La passione si sente.